strega di Capocabana, a te io ti porto a Ostia bambina, te faccio vedere il mondo in bicicletta, a non c'ho benzina, nella vespetta ho fatto due panini con quattro acciughe, l'ho pescate nel fiume del Barcarolo, all'anima degli pescetti per un etto di prosciutto m'hanno prosciugato, costano un occhio. Ah oh, non c'ho una lira neanche per piagnere, m'hanno levato il mondo i garzoni e pure le mutande, da Mosena sbrigata, se no ci arrestano che l'ho rubata. Ma che sta di sto a parlare dell'aria, damose a gambe che non l'ho pagata. Am vedi quanto è bullo, er sor politicante, ne dice siamo in crisi, non c'è più niente. Se donna porta a porta, a cosce sempre aperte, mi sembrano galline con le tette grosse grosse. Io sono un ambulante, precario e me ne vanto, ma io non avevo niente che in culo il vostro vento. Se devo da lecca, preferisco al camposanto. A bello che te strozzi, attaccate a sti cazzi. Au, non c'ho una lira neanche per piagnere, m'hanno levato il mondo i garzoni e pure le mutande, da Mosena sbrigata, se no ci arrestano che l'ho rubata. Ma che sta di sto a parlare dell'aria, damos a gambe che non l'ho pagata. Andiamo amore mio, andiamo non se ne che è meglio, sta qui a parlare con questi che te spremano il cervello. Non vedi che se credono li salvatori della patria, ma so quattro rincoglioniti senza anima e né coda. Andiamo che te porto dove nessuno ti ha mai portato, col cuore tuo respiro al diavolo ho mandato li sorci e li topastri di sti grandi maestri, all'anima degli mortacci ci hanno ridotto con due stracci. Ah oh, non c'ho una lira neanche per piagnere, m'hanno levato il mondo i garzoni e pure le mutande, da Mosena sbrigata, se no ci arrestano che l'ho rubata. Ma che sta di sto a parlare dell'aria, damos a gambe che non l'ho pagata. Ah oh, non c'ho una lira neanche per piagnere, m'hanno levato il mondo i garzoni e pure le mutande, da Mosena sbrigata, se no ci arrestano che l'ho rubata. Ma che sta di sto a parlare dell'aria, damos a gambe che non l'ho pagata.